nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Brava Giulia, è brava Giulia. Prenditi la vita che non è proprio una canzone natalizia. Non è una canzone natalizia, cara Deborah, ma è una canzone perché oggi si conclude, almeno per il momento. No, non fare così perché pure noi dopo ci commuoviamo, smettila. Almeno per il momento si conclude. Che sono già in difficoltà adesso pure io. Non volevo scatenare tutta questa emotività. Si conclude, dicevo, e allora noi con i migliori auspici salutiamo Giulia Lauricella che per mesi ha sostenuto e ci ha sostenuto un cavolo, ci ha sopportato proprio. Anche con richieste musicali, devo dire, talvolta peregrine da parte mia, di cui le chiedo scusa pubblicamente. Beh, sicuramente archivia l'esperienza con noi con una preparazione musicale che abbiamo notevolmente molto superiore esteso, a quella di quando è arrivata. L'abbiamo portata indietro fino agli anni 50. Ma chissà se tu l'hai appassionata con le tue ossessioni fiscali, se se ne va via anche con, non lo Io so. Io ho visto che stava cercando un TUIR, cioè sì, un test. Certo. Unico in imposte sui redditi per portarlo a casa e leggerlo con calma. Dopo io invece vado a interrogarla sui PIR e i Bitcoin. Lo sai che sono arrivati a $19,000 stanotte? Sì, ho Ieri visto. Siamo partiti a 14,000 con Pierangelo Soldavini, abbiamo scatenato. Io vorrei chiarire che non è colpa nostra, però non abbiamo responsabilità. Speriamo, abbiamo almeno solo fatto una trasmissione per spiegare come Infatti. Funzionano. No, tra l'altro a proposito di questo, chissà che non riusciamo a contattare telefonicamente poi l'amico Guido, si può dire il cognome? L'amico Guido, titolare di una barbieria a Cavalese in provincia di Trento, che siccome ieri facendo proprio la trasmissione sui Bitcoin abbiamo evocato il barbiere come dire commerciante o come sì, facevamo operatore riferimento esatto, a una pagare battuta che gironzola sempre nell'ambiente finanziario, che è quando di un'azione mi parla il mio barbiere, il momento di cederla. Allora, in realtà questo ascoltatore è molto molto simpatico e peraltro ci precisa barbiere da 5 generazioni. Mamma mia, in guarda, Cavalese dal 1870, pensa un po'. Quindi, caspita, dal momento in cui passiamo con la breccia di Porta Pia, se non vado esatto, se non infatti, mi sbaglio esattamente, adesso. Vero, vero. Io non c'ero ancora, ma per poco, sarei arrivato di lì a poco. No, e ci scrive infatti Deborah, stavi dicendo? Eh sì. No, ci scrive che praticamente in realtà lui è già con il suo esercizio sì. Dal 16 novembre del 2013 che accetta pagamenti in Bitcoin, è stato il primo negozio di settore in Italia ad accettarli, il secondo in Europa e persino il Sole 24 Ore se n'era accorto perché ci allega anche il link dell'articolo in cui il quotidiano parla di lui. Adesso vediamo se riusciamo a pescarlo e magari ci facciamo salutare in diretta. E così ci facciamo sì anche raccontare un po' come si trova con questi Bitcoin. Esatto, ma minimo devi andare a farti i capelli là per fare una prova sul campo, no? E testimoniare da bravo giornalista come ma si fa. Sicuramente, adesso non è che Cavalese sia proprio qui attaccata a Milano. Vabbè, una messa però in piega, dai. Una messa in piega, va bene. Sai quando andiamo a trovarlo? A giugno dell'anno prossimo, se tutto va bene, come stiamo facendo da molti anni. Radio 24 va sempre al Festival dell'Economia a Trento. Giusto. Magari in quell'occasione possiamo fare una capatina anche a Cavalese e vedere i Bitcoin proprio sul campo. Esatto. Saranno arrivati per quell'epoca, non so, a 50.000 dollari, 100.000 dollari. Rientriamo nei ranghi invece sì. Stamattina, altro che Bitcoin, parliamo di qualcosa molto più come dire vicino anche agli italiani, no? Che in realtà non diventano più buoni solamente a Natale, ma come dire praticano il territorio della solidarietà da molto tempo e diciamo che anche il fisco ha provato a venire incontro, no? Ai contribuenti italiani, a sì, quelli in qualche caso gli è venuto incontro un po' come un tir, un però in qualche altro caso invece cerca di agevolare. E quindi insomma gli italiani generosi sono fiscalmente contenti? Aiutati. Ma insomma non lo so, io ti dirò, abbiamo chiamato due ospiti che se ne intendono più di me. Sì. Una è in studio ed è Valentina Melis, collega del Sole 24 Noi Ore. Noi siamo in diretta questa mattina peraltro, ecco esatto. No, perché non vorrei che qualcuno avesse il sospetto che facciamo tutta questa questa sceneggiata esatto. Brava, vediamo che c'è anche la Valentina con Valentina Melis, benvenuta. E poi abbiamo anche Giampaolo Concari che è presidente del comitato tecnico dell'Istituto Italiano della Donazione. Buongiorno Giampaolo. Buongiorno a voi tutti e buongiorno agli ascoltatori. Non è collegato in diretta da Houston, bensì sta gestendo un banchetto di emergency, se non ho capito male, giusto? Esatto, con una temperatura quasi, non dico polare, ma comunque ci siamo vicini. Sì, oggi il clima a Milano è fastidioso, esatto. È freddo ma anche umido contemporaneamente. Dove sei Giampaolo, peraltro, esattamente dove l'avete allestito? Siamo a Sala Baganza in provincia di Parma. Eccolo qua. Allora, perché io sono di queste sì, zone. Sì, infatti era per capire se magari qualcuno passasse di là, così vi viene a trovare e a sostenere. Qua, come avrete già capito, parliamo delle donazioni, perché dicembre, cara Deborah, è un po' il mese non solo dei regali, ma anche delle donazioni, delle offerte. Spesso ci capita, anche facendo lo shopping natalizio, proprio di incontrare queste varie associazioni. Sono tantissime le associazioni che si occupano a diverso titolo di aiutare chi ha bisogno, persone vicine a noi, situazioni vicine a noi italiane oppure anche all'estero. Beh, voi del Sole 24 Ore avete scritto qualche tempo fa che il settore non profit si compone di un reticolo di oltre 300.000 organizzazioni, quindi hai voglia di sostenere. Sì, e allora la domanda è un po', va bene, ma questi soldi che uno volentieri anche dona, mette a disposizione, come vengono trattati? Perché devi sapere, cara Deborah, che è stata varata di recente una riforma del terzo settore, che però, stai attenta, perché la riforma c'è, ma non c'è ancora. Strano. No, ma queste prassi, diciamo, è un po' come la rottamazione delle cartelle. Guarda, Valentina Meris e Giampaolo Concari hanno tutto sotto controllo. Davvero? E meno male che ci sono loro. No, c'è, ma non c'è ancora, nel senso che dispiegherà i suoi effetti solo dall'anno 2018. Ma che cosa ha voluto fare questa riforma del terzo settore? Ecco che cosa bolle in pentola, lo raccontano loro. Ma perché è stata introdotta, Valentina? Insomma, che cosa ha voluto disciplinare questa norma che, peraltro, come tante riforme che vengono varate nel nostro paese, poi hanno bisogno di una pletora, migliaia e migliaia di provvedimenti attuativi prima di, come dire, di spiegare i propri effetti a pienamente. Ma allora, l'obiettivo fondamentale della riforma del terzo settore è quello di mettere ordine, appunto, in un complesso reticolo di normative fiscali e non riferite alle singole categorie di enti, quindi cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, onlus e così via. Basti pensare che l'ultima grande normativa riferita a questo settore, quella riferita alle onlus, risale al 1997, quella che ha istituito la categoria fiscale di onlus, quindi 20 anni dopo organizzazioni, ti interrompo, a beneficio di tutti quanti, non lucrative di utilità sociale. Questa era la sigla onlus, oramai la usiamo senza pensarci, ma il significato era proprio in questo non lucrative, perché non garantivano un guadagno ed erano destinate ad utilità sociale. Quindi la riforma che cosa fa? Diciamo che estende alcuni benefici fiscali che erano già previsti per le onlus a tutti gli enti del terzo settore che si iscriveranno in un registro ad hoc, il quale registro deve ancora essere messo in piedi. E prevede una fase attuativa che coinvolgerà anche le regioni. Ora manca un decreto del Ministero del Lavoro, ma una volta che ci sarà questo registro unico, tutti gli enti che entreranno a farne parte avranno dei benefici fiscali previsti da questa riforma. Quindi il primo obiettivo era creare un po' unità tra tutte le agevolazioni fiscali che adesso sono, diciamo, distribuite in tante norme. Un altro grande obiettivo di questa riforma, che è composta da tanti decreti, il solo codice del terzo settore ha 104 articoli, quindi è una riforma molto complessa. Agile? No, però, era ironico ovviamente. Però un altro degli obiettivi di questa riforma era agevolare proprio il contributo dei privati a favore delle organizzazioni del privato sociale. È per questo che dal 1 gennaio 2018 vengono innalzati i benefici fiscali per chi dona, quindi la detrazione IRPEF, per esempio, sulle donazioni delle persone fisiche passerà dal 26 al 30%. Chiaramente parliamo di donazioni tracciate, fatte con certe modalità e non l'acquisto magari del panettone al banchetto natalizio troviamo in Piazza Duomo, perché è chiaro che poi è lì. Se avete dei dubbi, comunque, anche questa mattina aspettiamo i vostri sms, le vostre telefonate per intervenire in diretta. Gli sms sono al numero abituale 349-238-6666, lo stesso numero va bene anche se volete mandarci dei WhatsApp. E se invece volete intervenire in diretta, Deborah, diamo... Possiamo far chiamare i nostri ascoltatori al consueto numero, all'800 24 00 24. Se stamattina questa giornata di festa ve la state godendo in tranquillità in famiglia, siete così incuriositi da questo argomento, potete naturalmente interpellarci per condividere con noi le vostre esperienze anche di donatori o volontari in qualche organizzazione, perché anche questo mondo forse viene un po' sono milioni le persone, no? Gli italiani che sono impegnati a diverso titolo nel volontariato. Sono oltre 3 milioni e quello che appunto è importante anche da rilevare della riforma è che la riforma impone degli obblighi di trasparenza a tutti gli enti che ricevono appunto delle erogazioni liberali, così si chiamano tecnicamente, no? Quindi ad esempio tutti i beneficiari del 5 per 1000 avranno l'obbligo di rendicontare online come hanno speso questi fondi. E questo è un grande passo avanti, perché il 5 per 1000 vale 500 milioni l'anno. Le donazioni, diciamo, complessivamente valgono oltre 5 miliardi l'anno. E quindi si tratta di una ingente quantità di denaro che va chiaramente, di cui va reso conto a chi dona. Un altro elemento che vi ricordo legato alla riforma è il potenziamento della cosiddetta legge più dai meno versi, che è quella legge che consente di dedurre dal reddito gli importi donati e che favorisce soprattutto i grandi donatori. Fino adesso, praticamente fino al 31 dicembre, la più dai meno versi si applica fino al 10% del reddito imponibile con un tetto a 70.000 euro. Da gennaio questo tetto viene eliminato. Scusami, quindi, Valentina, i 70.000 euro sono riferiti alla donazione, all'importo della donazione? Sono riferiti all'importo deducibile, l'importo massimo, è un tetto, diciamo, oltre il quale non si può avere il beneficio. Invece, con la riforma, dal 1 di gennaio, l'unico tetto è il 10% del reddito imponibile. Questo soprattutto per i grandi donatori. Chi è un grande donatore, per esempio, Valentina? Beh, società, imprese, tutti quegli enti che, per esempio, anziché promuovere altri tipi di filantropia o di iniziative, soprattutto in questo periodo, per esempio, decidono di destinare una somma, spesso anche considerevole, ad iniziative benefiche o a sostenere i progetti di determinate organizzazioni. Ormai anche tra le imprese è una tendenza abbastanza diffusa. Allora, io vorrei chiamare in causa Giampaolo Concari da quel di Sala Baganza, a freddo, in un freddoloso mattino di Sala Baganza. Si è definito stamattina il merluzzo surgelato lì in piazza. Addirittura. Esatto. Allora, abbiamo messo un po' di paletti, stiamo cominciando a mettere un po' di paletti per chiarire a chi ci ascolta come aiutare il terzo settore, come aiutare le associazioni che sono impegnate nel sociale. Vorrei andare con Concari un po' più nel dettaglio. Allora, già ci ricordava la regola generale del più dai meno versi, vale quindi fino a fine anno in un modo e ha un tetto, poi dall'anno prossimo diventerà più generosa. Questo è per riassumere il tutto. Concari, più o meno ci siamo, no? Questo è il tema, ma dobbiamo essere attenti a fare delle donazioni, lo ricordava prima Deborah, che siano tracciabili. Quindi significa... Quindi significa usare dei mezzi di pagamento che lasciano traccia, vale a dire che il contante, per esempio, anzi è l'unico esempio che non va bene per avere poi delle agevolazioni fiscali. Quindi si deve usare un bonifico bancario, un conto corrente postale, carte di credito o di debito, anche gli assegni bancari una volta non andavano bene, adesso dal momento che non è più possibile fare la girata, non c'è più la clausola esistono soltanto gli assegni bancari non trasferibili. Sì. Stavo incartando da solo. È il freddo Concari. Infatti mi sto scongelando adesso. E praticamente adesso sono accettati anche questi, però appunto mezzi di pagamento tracciabili, cioè con tutti quei mezzi di pagamento che lasciano traccia in modo tale che è possibile ristabilire, andando a ritroso, chi è il beneficiario e chi ha effettuato effettivamente la spesa. Ecco, ma quali sono poi... No, mi scusi se la interrompo, ma quali sono poi gli obblighi connessi per sfruttare questo sconto che il fisco ci fa e che riportiamo in dichiarazione dei redditi? Ad esempio, parliamo delle persone fisiche, cioè di quelle della gente normale, non delle imprese, quindi non soggetti IRES, per così dire. Devo tenere da parte qualcosa? Devo aspettare che la Onlus mi mandi qualcosa? Una certificazione, che è quella che di solito aspettiamo tra tipo febbraio e aprile, no? Più o meno. Più o meno. Diciamo che molte Onlus, molte organizzazioni non profit hanno all'interno, anche per ragioni di fidelizzazione dei loro donatori, hanno un sistema per cui viene rilasciato anche una certificazione, una lettera in cui si riconosce appunto l'avvenuta donazione. ma mancando questa è sufficiente avere un bonifico, la ricevuta del bonifico, la ricevuta del conto corrente postale in cui siano chiari effettivamente chi ha effettuato il versamento e a chi è andato. Quindi questi sono mezzi che sono sufficienti per il fisco. Io so che adesso Deborah mi picchia, ma siccome abbiamo da un paio d'anni la dichiarazione precompilata, sì, con il 730, ribattezzata da voi anche un po' maliziosi lì al Sole 24 Ore, la precomplicata. Sì, qualche volta è la precomplicata. Queste donazioni... Queste donazioni che noi facciamo con mezzi tracciabili alle associazioni del terzo settore, io chiedo scusa, continuo a dire onlus, ma per abitudine inveterata, vengono inserite in automatico dall'Agenzia delle Entrate in questa dichiarazione precompilata, il 730 già preparato da loro? No, queste non sono all'interno del sistema del cervellone dell'Agenzia delle Entrate, non entrano al momento. So che è allo studio un progetto per fare in modo che anche le organizzazioni del terzo settore comunichino all'Agenzia delle Entrate i nominativi, eccetera. Però è un passaggio che veramente farà venire il mal di testa, perché molte donazioni, molte erogazioni liberali sono estremamente parcellizzate, quindi si va dai pochi euro a somme più elevate. Ci sono appunto una miriade di donatori che non sempre riescono a inserire proprio tutti i dati nei vari versamenti, ma veramente farà venire il mal di testa, credo, questa cosa. Senta, in futuro è possibile che... È possibile che venga inserito in automatico. È possibile che vengano gestite appunto dal cervellone dell'Agenzia delle Entrate. Certo. Questo però non succederà nella dichiarazione dell'anno prossimo. Questo possiamo già darlo per assodato. Quindi tenete da parte, se fate le donazioni, tenete da parte gli estremi dell'associazione a cui avete donato. Naturalmente testimonianza può essere anche semplicemente il fatto che avete fatto il bonifico bancario piuttosto che la fotocopia dell'assegno, tenetelo da parte, perché poi quando si fa il 730 o il modello redditi, non si chiama più unico, cara Deborah, si chiama modello redditi. Non mi dare queste notizie così di prima mattina che mi fanno così, male. Un giorno dell'Immacolata te la butto in lì. Libertà, me la metti lì. Allora, devi tenere da parte e riportare benissimo, poi per avere lo sconto. Ottimo. Giampaolo, volevo chiedere, spieghiamo ai nostri ascoltatori che cosa fa l'Istituto Italiano della Donazione, così almeno chiariamo i motivi per cui chiamiamo a spiegarci delle cose alcuni interlocutori invece di altri. È la classica domanda: chi siamo, dove andiamo, perché andiamo? Allora, no, l'Istituto Italiano della Donazione è un ente, una sorta di ente di certificazione. Nasce un po' di anni fa sulla base di quella che era la cosiddetta carta della donazione. È passato veramente tanto tempo, adesso non ricordo nemmeno chi aveva sottoscritto questa carta della donazione, e mi scuso con voi e con gli ascoltatori, però praticamente fu sancito una sorta di codice etico delle varie organizzazioni che fondarono questa carta, e poi da lì è partito l'idea di costituire questo istituto a cui aderiscono tante organizzazioni non profit, e queste praticamente chiedono una verifica della loro governance, dei loro conti, eccetera, della rispondenza in sostanza del loro operato ai criteri stabiliti nella carta della donazione, e quindi viene rilasciato un marchio che serve al donatore per dire sì, questa organizzazione effettivamente è meritevole della mia attenzione. Come faccio a verificare questo, la specie di bollino, insomma, di certificato di garanzia? C'è un sito dove possiamo controllare? C'è il sito dell'Istituto Italiano della Donazione, che è appunto www.istitutoitalianodonazione.it, e all'interno c'è una sezione dove si chiama Io Dono Sicuro, che all'interno della quale c'è questo database in cui sono indicate le organizzazioni che hanno superato il controllo, le nostre verifiche, e hanno ricevuto il marchietto di bravi, sì, sono in regola, insomma, con i criteri stabiliti dall'istituto. Non è che chi non fa parte dell'Istituto Italiano della Donazione è un delinquente, anzi, al contrario, ci sono tante organizzazioni che non aderiscono, però quelle che aderiscono hanno, diciamo così, quindi devono farlo spontaneamente, ecco, loro devono chiedere questa patente, diciamo. Adesso parleremo anche dell'iniziativa che hanno avviato proprio in questo periodo, e cioè hanno stilato le 7 regole per donazioni sicure, e adesso le spiegheremo ai nostri ascoltatori. Però c'è una sorpresa, Mauro. Quale sorpresa? C'è la sorpresa che abbiamo finalmente raggiunto il nostro amico barbiere Guido da Cavalese. Buongiorno, Guido. Buongiorno. Allora, certo, il mondo di cui parliamo questa mattina e quello di cui abbiamo parlato ieri non hanno nulla a che fare. Esattamente, sì. Sono distantissimi, però ci ha molto incuriosito la sua testimonianza, la sua bella mail che ci ha scritto questa mattina, il fatto che lei accetti i bitcoin come forma di pagamento per i suoi servizi. Intanto, buongiorno e buone feste. A voi e agli ascoltatori. Sì, io praticamente, voi come barberia, abbiamo aderito già dal novembre 2013 a accettare il bitcoin, e è stata un'idea di mio figlio, e sembra vincente, insomma, al contrario di quando avete detto ieri, che praticamente quando il barbiere parla di era una citazione, però io le chiedo scusa, non vorrei, poi magari vengo da lei quando c'è stata la bolla della borsa cinese, praticamente utilizzavano il concetto del parrucchiere, invece siccome compravano in borsa anche parrucchieri e clienti dei parrucchieri, praticamente là è stato il momento in cui hanno stabilito che i valori delle quotazioni fossero troppo alte. Vabbè, detto questo, Guido, lei è contento, ma sì, Guido, ma come praticamente come la pagano? Quindi vengono da lei, Mauro venisse da lei a tagliarsi i capelli, come si fa il pagamento e la transazione finanziaria? Praticamente si genera un QR code sul computer, e col telefonino praticamente con la telecamera inquadra il codice, sì, e via il pagamento, e in giro di 10 minuti io posso già spenderlo, insomma, quindi in tempo quasi reale. Io fino adesso ho fatto una ventina di transazioni. C'è da dire che il taglio che mi ha reso di tutti è stato fatto nel 2015 con servizi che attualmente ha un valore controvalore di circa 1.500 euro, quindi sono abbastanza... La sentiamo malissimo, Guido, però insomma abbiamo capito lo spirito della... Per lei è anche lo strumento di investimento. Beh, innanzitutto, esatto, complimenti, anche perché questo abbinamento, Deborah, tra il bitcoin, cioè la moneta digitale, il futuro, l'oro digitale... E il volontariato, la solidarietà. La lavoro di barberia, che è assolutamente, diciamo, più risalente, più fisico, più tattile. Ecco, questo qui è una cosa già che ci mette un po' di buon umore in questa giornata di festa. Benissimo, allora io ti metto altrettanto di buon umore, perché stamattina la seduta di borsa è decisamente scoppiettante. Quindi guarda, se vuoi sarebbe anche ora che io la allora racconti questa salutiamo giornata. Guido e Deborah, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Ore 16, autocommisurazione. 16:30, fissare il muro. Ore 17, risolvere la fame nel mondo e non dirlo a nessuno. 17:30, ginnastica. 18:30, a cena con me. Questo non lo posso rimandare ancora. Ore 19, lottare contro il disprezzo per me stesso. L'agenda è piena. Certo, se sposto l'autodisprezzo alle 21, avrò ancora il tempo di sdraiarmi a letto, a fissare il soffitto e scivolare lentamente nella pazzia. Ma che vestito mi metto? Ah, questo era il Grinch. sì, la creaturina verde che odia il Natale, no? Sì, un po' come Scrooge dei Canto di Natale di Dickens. Di Dickens, infatti, e che invece di solito sappiamo che il Natale è il periodo di grandi doni, bontà, e anche di donazioni, insomma ci sentiamo tutti, o forse proviamo a essere tutti un po' più buoni. E anche di discrete mangiate, perché pure quelle ce le dobbiamo mettere. Ho visto che, cara Debora, alla fine il fisco prende il sopravvento nei messaggi, nelle telefonate, perché tutti vogliono capire ma come funziona. Allora, una cosa importante che ripetiamo è che la donazione che fate all'ETS, all'ente del terzo settore, o Onlus, insomma chiamatela come volete, all'associazione, allora tenetene traccia, perché nella dichiarazione precompilata, cioè quella che l'agenzia prepara già per noi, non finiscono queste donazioni, quindi ce le dobbiamo aggiungere noi, cioè dobbiamo portarle noi dal commercialista o dal sostituto d'imposta, da chi ci fa l'assistenza fiscale, e segnalargli che abbiamo fatto queste donazioni. Tutto ciò premesso, però, sentiamo gli ascoltatori. Chi vuoi sentire, Deborah? Allora, sì, intanto ricordiamo che ci ha dovuto abbandonare per ragioni di lavoro Valentina Melis, ma è rimasto con noi Gianpaolo Concari, presidente del Comitato Tecnico dell'Istituto Italiano della Donazione. E fra un po' ci raggiungerà anche un'altra ospite. Detto ciò, andiamo ai nostri ascoltatori. Allora, è la mattinata delle sorprese. E dopo Guido da Cavalese, che ci ha raccontato come fa a farsi pagare in bitcoin in barbieria, che non c'entrava niente col tema di stamattina ma con quello di ieri, abbiamo voluto però salutarlo. Rasatura digitale. C'è un altro grandissimo amico di Due di Denari, che è il notaio Piercarlo Mattea, che stamattina ha voluto ben pensare di passare la sua festività ascoltando Due di Denari. Ma fa molto bene. E ma soprattutto una testimonianza sull'argomento di oggi da condividere con noi. Piercarlo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, che cosa è successo? Come mai noi veniamo in aiuto ad un notaio, che ci sembra una circostanza che ha dell'incredibile, perché di solito li chiamiamo noi per facilità. Ora me lo metto nel curriculum questo. Esatto. Certo, Piercarlo, molto volentieri. Semplicemente questo, volevo far notare come a volte certi aspetti della burocrazia, dell'amministrazione finanziaria, dell'agenzia delle entrate, rischiano di rendere vani le nostre migliori intenzioni nel senso della solidarietà, delle erogazioni liberali, in modo proprio assolutamente incomprensibile. La faccio molto breve, racconto la mia esperienza personale. Tutti gli anni, da molti anni, in famiglia noi facciamo una modesta erogazione a un ente che è tranquillamente incluso in quelli che sono destinatari di queste erogazioni con deducibilità fiscale, mai avuto problemi a metterla in detrazione. Qualche giorno fa mi arriva dall'Agenzia delle Entrate una comunicazione che dice la sua erogazione per l'anno 2013 non viene riconosciuta. Cosa succede? Perché non tracciata? Vado a vedere, è un ente fra l'altro molto ben strutturato dal punto di vista burocratico, quindi aveva rilasciato subito una ricevuta che io avevo allegato, vado a vedere nel conto corrente, trovo anche l'assegno che avevo fatto. Alla fine qual era il problema? Che l'assegno è stato fatto sul conto che noi in famiglia usiamo per le spese correnti, che è intestato a mia moglie. Quindi il denaro è uscito dal conto intestato a mia moglie, sul quale io ho tranquillamente la delega, infatti l'assegno l'avevo firmato io, non hanno riconosciuto la deduzione a me perché veniva da un conto intestato alla moglie. Ora mi sembra scandaloso, anche perché d'accordo, il denaro è della moglie, la moglie l'ha dato a me, io l'ho versato. Non l'ho potuto dedurre né io né lei a questo punto. Io credo che ci voglia un minimo di elasticità. Adesso dall'anno prossimo lo farò sul mio conto. Diciamo che il concetto del buonsenso qualche volta il fisco non lo afferra. Assolutamente. Proprio molto. Io non credo che sia una cosa così. Prego. Io vorrei chiamare in causa Concari per capire se con la riforma del terzo settore, oltre al fatto che saliranno i limiti da gennaio prossimo, cambia anche un po' questo approccio, cioè possiamo confidare in un approccio un po' più elastico, invece queste qua sono regole di base che restano quelle che sono. Giampaolo, oramai infreddolitissimo in quelli di sala bagagli. Mi sono scongelato, grazie. Infatti sento anche la miglior qualità della telefonata. Cosa ne pensi della testimonianza che abbiamo ascoltato poco fa? Sono quelle situazioni un po' urticanti che io le definisco così, che purtroppo accadono perché appunto ricostruendo a ritroso il pagamento si giunge a chi lo ha effettuato, che non è la persona che poi ha goduto della detrazione o dell'agevolazione fiscale poi nella propria dichiarazione. Purtroppo questo è un aspetto che non credo avrà una soluzione nella riforma del terzo settore, proprio perché per come è strutturato il sistema che a volte appunto raggiunge livelli kafkiani di burocrazia, purtroppo fa arrivare questa detrazione appunto in capo ad un altro che non è quello che ha compilato la dichiarazione, e allora lì il sistema si inceppa. Vale oggi anche il bollettino postale, Mauro, secondo te come traccia per le donazioni? Chiediamo subito una conferma non al notaio, che forse Piercarlo ci ha già salutato, ma Gianpaolo. Io li ho sempre utilizzati nelle dichiarazioni dei miei clienti, non ho mai avuto problemi. Bene. Anche perché i bollettini sono fatti in modo che quelli prestampati dall'organizzazione sono fatti in modo da raccogliere i dati del donatore, per cui c'è una diretta correlazione tra il soggetto che paga e il soggetto che riceve, cioè il soggetto che dona, anzi non paga. È il giorno giusto, Deborah, per le stranezze fiscali. Tra poco avremo C'è imposta per te. Ah, quindi è vero, è venerdì, non me lo ricordavo. Allora, allora salutiamo subito anche la nostra prossima ospite, che è Mara Moglioli, co-founder di Italia Non Profit. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Perché questa organizzazione ha lanciato proprio pochi giorni fa una piattaforma per l'e-commerce solidale. Per quale motivo? Perché ci sono molti italiani che in questi giorni non solo fanno delle donazioni perché si sentono più buoni, perché è Natale e naturalmente vogliono restituire, no, un po' tutto quello che hanno avuto nel corso dell'anno, se per qualcuno magari è stato dal punto di vista professionale o per altre ragioni un anno particolarmente fortunato, ma ci sono anche persone che vogliono fare dei regali solidali, quindi magari regalare dei prodotti confezionati da delle associazioni che in questa modalità si finanziano e si sostengono. Però uno vuole magari capire quali sono i regali più utili da fare in questo senso e quindi cerca informazioni, no? Mara Moglioli, e voi avete proprio costruito questa sorta di comparatore di offerte, se vogliamo chiamarlo così, questa vostra piattaforma. Sì, diciamo di sì. L'idea è partita da un'indagine più ampia, perché abbiamo iniziato ad analizzare tutto quello che era, insomma, il contorno natalizio, quindi quanto è importante questo periodo per le organizzazioni non profit italiane, un po' di tutto il mondo in realtà, ma anche quelle italiane, e quindi abbiamo cercato di trovare uno strumento che permettesse al donatore di trovare più facilmente le organizzazioni che offrono regali solidali. Quindi grazie alla piattaforma Italia Non Profit, che è una piattaforma che aggrega e facilita l'incontro tra le organizzazioni non profit e i cittadini, abbiamo inserito una semplificazione, quindi un passaggio molto semplice, per cui il donatore che vuole cercare un regalo sulla piattaforma ha direttamente il collegamento con lo shop pagina dell'organizzazione stessa. Quindi di fatto non fa un acquisto o una donazione tramite la piattaforma, ma grazie a questa piattaforma trova tutte le organizzazioni che offrono regali solidali. Ecco, da questo monitoraggio che cosa avete scoperto di interessante? Anche se tra un po' dobbiamo andare in pausa, ma magari intanto in 30 secondi possiamo anticipare qualche cosa a questo proposito, Mara. Assolutamente sì, le organizzazioni sfruttano moltissimo questo periodo, online ancora poco, c'è ancora molto da fare, quindi è un mercato ancora molto aperto. Ci sono tantissime piattaforme che tantissime organizzazioni che offrono online la possibilità di acquistare dei regali, quindi per le persone è molto semplice arrivare poi a fare una scelta di donazione, certo, a Natale. Allora, va bene, ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo ancora con Due di Denari. Ora, caro Andrea Roccabella, cortesemente il traffico. Due di Denari. Come un candito a Natale, lo so che ce la puoi fare, scartarti ogni volta. Anch'io sono una di quelle che scartano i canditi. No, dal... sì, ma non si fa. Lo so, cosa devo fare? E magari poi aggiungi sul panettone cose, creme. No. Vedi che mi tratti con del pregiudizio, no. Però non sono un amante del candito. Una golosona su tutto il resto, però quello è un mio limite. Ce ne faremo una ragione. Esatto, infatti. Allora, abbiamo due esperti in collegamento, Gianpaolo Concari e Mara Moglioli. Tra l'altro mi dicevi, Deborah, sì, abbiamo queste sette regole per la donazione. Sì, esatto, Gianpaolo Concari, perché l'abbiamo lanciate prima, ma come Istituto Italiano della Donazione avete stilato proprio questo vademecum, che è molto breve, molto sintetico, le sette regole per donazioni sicure, e quindi che tipo di rassicurazioni diamo a chi vuole fare l'erogazione liberale, come viene correttamente definita. Allora, si tratta di 7 regole, appunto, che un potenziale donatore dovrebbe seguire per fare una donazione un po', diciamo, a ragion veduta. Allora, diciamo che sono 7 punti che vengono agevolati dall'Istituto Italiano della Donazione, e altri invece che se ne deve far carico il donatore. Possiamo andare con un po' di sintesi, Giampaolo, perché stiamo chiudendo, ti ringrazierei molto, sì. Molto velocemente. Allora, innanzitutto verificare che l'organizzazione non profit sia nel database dell'Istituto Italiano della Donazione. Ovviamente noi, l'Istituto Italiano della Donazione rilascia un marchio, chi è dentro in questo database ha superato una serie di controlli. Esatto, il database io dono sicuro. Poi visitare anche il sito web dell'organizzazione. Il sito web dell'organizzazione. Procurarsi delle pubblicazioni delle organizzazioni in cui si viene documentata l'attività che viene svolta da questa organizzazione. Si può accertare anche che queste informazioni siano complete, cioè che diano rassicurazioni in tema di raggiungimento degli obiettivi che questa organizzazione si è data. Poi occorre fare un minimo di sforzo e verificare sul sito web, ormai tutte le organizzazioni ne hanno uno, che siano pubblicati annualmente e con costanza i bilanci economico e quello di missione, o comunque un report che riguardi l'attività svolta, che mette in evidenza che l'organizzazione è viva e lotta insieme a noi. Sì, esiste, insomma, c'è qualcuno che fa qualcosa, esatto, con quella donazione. Esatto. E poi una cosa molto importante è verificare anche, sebbene non sia l'unico elemento discriminante, ma è un buon indice, quello di verificare appunto se quanta parte delle donazioni che l'ente riceve vengono investite sui progetti dell'organizzazione stessa. O quante risorse vanno per il mantenimento dell'attività dell'organizzazione. Certo, comunque anche il volontariato ha dei costi, non può essere sempre tutto gratuito. E si rischia di essere di fare una donazione ad una organizzazione che purtroppo per una serie di problemi suoi o esterni, non si sa, questa organizzazione è autoreferenziale. Grazie. Praticamente, grazie Giampaolo. Ti chiudo brutalmente perché abbiamo 4 minuti. Sentirei al volo Giovanna da Grosseto, ma proprio telegrafica, Giovanna, perché c'è imposta per te, non me la voglio perdere per nulla al mondo. Giovanna? Ok, buongiorno. Senta, io volevo fare una domanda. Ho fatto una donazione, con bonifico. Sì. L'intestatario della donazione, adesso mi accorgo che è una banca. Ha donato ad una banca? Ad una banca, però l'unica cosa da cui si può risalire è la comunicazione al beneficiario per il progetto, Sololo nel caso specifico. Quindi praticamente lei ha fatto una donazione, ha scoperto che l'ha fatta una banca, poi la banca a sua volta donerà all'organizzazione finale? Certo, io penso che questa organizzazione abbia come intestatario il conto una banca. A chi possiamo chiedere? Giampaolo, sei ancora tra di noi? In 30 secondi ce la fai? Secondo te è possibile? Sì, direi che è possibile. Succede spesso quando si fanno delle raccolte pubbliche in caso di calamità naturali. Io ritengo che sia possibile perché in ogni caso è possibile ricostruire a ritroso il tracciato dei denari. E spesso sono giornali, sono testate giornalistiche, sono banche che fanno la raccolta e poi destinano a dei progetti tipicamente locali. Con il terremoto succede così, è vero Giampaolo, grazie. Mara Moglioli, 30 secondi, regalo solidale più gettonato che voi vedete movimentato sulla vostra piattaforma, qual è? Allora, guarda, da poco vivo tutto, di solitamente vanno molto gli aspetti più legati a panettoni e cose, alimenti, il cibo, però in realtà appunto quello che noi osserveremo è anche saranno poi le organizzazioni che ricevono più contatti rispetto alle scelte, quindi quelle sono le organizzazioni che vengono più scelte quando si parla di regali solidali di Natale, quindi assolutamente. Poi benissimo, grazie a Mara Moglioli, a Giampaolo Concari, scusatemi se vi ho messo fretta, ma dobbiamo andare al momento solenne della fine della nostra trasmissione. C'è imposta per te. A Allora, cara Debora, così come il volontariato e il terzo settore hanno delle spese, così hanno anche le loro imposte. Ho pescato, ti do un'anteprima perché questa risposta uscirà sull'Esperto Risponde di lunedì prossimo, ma io sono in grado di fornirtela in anteprima ma mondiale. Ma non dire tutto così la suspense rimane intatta. Sono molte risposte ovviamente nel fascicolo che uscirà lunedì, ma questa è interessante perché è una cooperativa sociale Onlus, gestisce degli asili nido e però anche ad alcuni bambini dà pure il pasto. Beh, vorrei ben vedere. Allora, il punto qual è? Che l'IVA li guarda. Guarda anche loro. Allora, la cooperativa questo pasto lo deve fatturare al 5%, perché così dice il punto 21 dell'articolo 10 del DPR 633, oppure lo deve fatturare al 4% in base al punto 37 della tabella A? Ecco. Guarda che è lo stesso decreto di cui sto parlando, il famoso 633 che tu ben conosci. Certamente, non mi stupirei se questi bambini fosse chiesto di portare il ticket al ristorante, dovremmo chiamare il nostro amico Sirocchi per farci oppure di presentarsi in mensa con il codice fiscale. Ecco. Io suggerirei questo. Comunque, devono pagare, purtroppo la risposta non è favorevole alla Onlus. Ecco. C'è quel punto in più, il fisco non molla, aliquota IVA del 5% per la fornitura di pasti, perché qui si tratta di prestazione accessoria, certo, collegata alla gestione di asili nido. L'IVA ti guarda. Mamma mia, pure arcigna, ti guarda pure male, veramente. Siete delle brutte persone voi che vi occupate di questi argomenti. Senti, 30 secondi, Anna Maria da Milano ci voleva raccontare che fa sempre delle donazioni a dicembre, poi durante l'anno le mandano centinaia di bollettini e naturalmente una volta che l'associazione ti scopre, Anna Maria, non riusciamo a mandarla in onda, poi loro ovviamente intercettano la persona particolarmente generosa e ci provano. Ma l'anno. Una volta che abbiamo manifestato la nostra generosità, vabbè, chiaramente infatti, l'associazione cerca di tenerci come dire, vicini, esatto, ai motivi stessi dell'associazione. E no, poi ci raccontano anche per tutto l'anno quello che fanno, probabilmente con molte associazioni. È un modo anche per così testimoniare e certificare tutta la loro attività. Grazie, grazie a tutti i nostri ospiti. Sì, Andrea, chiudo, non ti preoccupare. Allora, io lunedì non ci sono, comportati bene in diretta. Guarda, facciamo magari una festicciola, vediamo come va domani. Domani sera. E io mangio il panettone senza candito, così impari. Buona domenica. Ciao.